con noi. La merce non in cambio non puoi, non può fare lo spavaldo, spingo poi. La quota jig del fianco per voi. Pazze metti d'asfalto. Cammino a testa bassa e non penso a niente. Cammino tra rullante e casse in mezzo alla gente. Cuffie nelle orecchie, vuoto dentro la mente. In silenzio mentre fuori il freddo è proprio pungente. Sono vecchie situazioni che ritornano a galla. Sensazioni che mi fanno sprofondare nel nulla. La paura di restare sempre solo in disparte. Non riuscire a diventare grande, a essere forte. Sorte alle caviglie, guerriglie di morte. Corde intorno al collo come un cobra che ti morde. E grazie alla musica esco dal tunnel. Addomestica i miei sensi come dopo un buon cocktail. La musica è fondamentale. Bisognerebbe qualche volta stare zitti ed ascoltare. C'è sempre qualcosa da imparare. Anche se la gente in giro dice fa cagare. Con noi la merce non in cambio non puoi fare lo spavaldo, spingo poi. Dakota Jing del fianco per voi. Pazze metti d'asfalto. A me fa incazzare che dentro la city anticipo tutto e parto con biglietti finti. Fumo la purple, mi butto nella battle. Vengo via da via Arto, me sono un ninja tarto. Tu in onda, io in Toyota. Il flow in onda, stregone da cota. A raduno Fiat io ti chiudo la bocca. Zio ti faccio andare a casa che c'è solo una ruota. Lo shuttle decolla, io c'ho una giolla. La gente sa colla, io c'ho una Morgan. Figli di Magnolia o figli di mignota, tutti insieme lottiamo per la stessa botta. Pugno e calci in bocca col mocassino. Stregone da cota, lo sai che spinge al massimo. Con spingo scassino le case al prossimo. Se non hai capito riascoltati con noi. Tossico. La merce non in cambio non puoi fare lo spavaldo, spingo poi. Dakota Jing del fianco per voi. Pazze metti d'asfalto con la merce non in cambio, zero risarcimento. Io ti pacco, sparisco come Don Nascimento. Attento che corro rischi e mi capita che in certi giorni tiro giù più Cristi di Agatha. Sensual movimento, muy sexy. Casual l'abbigliamento che vesti. Tu come ti presti, crew, vedi i riflessi di noi che siamo più freschi di cubetti di eschimesi. MC Lazy, parliamo che non si capisce un cazzo, go crazy. Siamo troppo presi nel trattare merci olandesi su merci che fanno sfarionare. Oh, e come brilla la spingo famiglia. Qua mi sento a casa anche senza barilla. Anche senza villa giriamo in spadriglia. Se non c'è storia come un cobra contro un anguilla. Con noi la merce non in cambio non puoi fare lo spavaldo, spingo poi. Dakota Jing del fianco per voi. Pazze metti d'asfalto, oh.